19 dicembre 1939. Comunicazione della Regia Prefettura di Bolzano al Ministero dell'Interno. Per notizia, pregio mi riferire che il 5 ultimo il contadino Josef Peter Tschatscher, di anni 35, da Karnait, rinvenne sotto la porta d'ingresso della propria abitazione un foglio di carta sul quale sono scritte le seguenti minacce in lingua tedesca. Oh, yeah. Wir, die deutschen Bürger, verlangen, unsere Bitte zur Kenntnis zu nehmen und die Wahlen so schnell als möglich durchzuführen. Und zwar bis spätestens 14., aber bis innerhalb 20. Dezember dieses Jahres. Falls dies nicht geschehen sollte, werden wir euch zeigen, was Deutsche sind und euch die Dächer und Fenster zerschlagen und alles in Brand stecken. Wir kennen keinen ehrlichen Italiener. Heil unserem deutschen Führer! Sono state disposte indagini per l'identificazione dell'autore. Merano, 14 marzo 1940. Lettera di un non meglio precisato nipote John, scritta in italiano a Mary Erschpamer, a Harvey, USA. Allora, con la presente vi comunico che noi abbiamo votato per la Germania. Il termine della votazione era il 31 dicembre 1939. Prima è stato detto che quelli che rimangono qui non possono rimanere nel Südtirol e debbono essere trasferiti nel territorio del Regno. Noi, che siamo diventati italiani dopo l'armistizio, ci fu promesso dal governo italiano di conservare i nostri usi e costumi, come hanno promesso nel 1918. Però, purtroppo, non hanno mantenuto la parola. Noi non abbiamo niente, neanche le scuole tedesche, divertimenti, eccetera, eccetera. Dopo 20 anni, il popolo non ha dimenticato che è stato derubato di tutti i diritti. Ecco perché la popolazione, in ragione del 93%, ha votato per la Germania. Essi non potevano sottoscrivere per l'Italia, perché sono tedeschi. Anche il prefetto di Bolzano ha negato tutte le dicerie dei trasferimenti nel resto d'Italia. Ma era ormai troppo tardi. Non si poteva credere a loro, perché non hanno mantenuto la parola una prima volta. Certo che nessuno vuole lasciare la sua casa, la sua cara patria, però questa cosa non si sopporta ed è meglio andare via dal paese che firmare per essere italiano se la madrelingua è la tedesca. Entro 2 anni dobbiamo essere via da qui. Il possesso viene stimato da una commissione mista italo-germanica. La vita è cara, ma in Germania, quando sarà terminata la guerra, si starà meglio di qui. Speriamo che la Germania vinca la guerra, altrimenti non avremo più bene né pace. Tuo John. Bolzano, 13 maggio 1940. A Oscar Löffler, ad Aosta. Si dice qui che molti contadini optano per poter rimanere. L'odio e l'incomprensione fra i partenti e quelli che rimangono aumenta sempre più. Poco tempo fa ebbe luogo, presso il Grifone, una adunanza plenaria per decidere dove doveva rimanere la proprietà del museo. I membri della società dei partenti, che erano nella preponderante maggioranza, pretendevano di prendere seco gli oggetti preziosi, mentre quelli che rimangono sostenevano che la proprietà del museo non può essere trasportata all'estero. Avvennero delle scene che ebbero luogo delle sedute feroci, nel corso delle quali entrambe le parti presero un contegno minaccioso tra loro e si studiarono bene come poterono. Il presidente della società, barone Ayl, il quale dirige i lavori da 57 anni, Dovete dare le dimissioni, perché fa parte di quelli che rimangono. E la deputazione è stata sciolta, sotto la protesta rumoreggiante di quelli che rimangono. Poi si fecero nuove elezioni e la nuova deputazione è stata composta soltanto di membri che partono. Alcune signore partenti si comportarono verso le rimanenti come vere iene. E questo è successo tutto nella sala del Grifone. Fino alle ore 1 di notte è stato baruffato con grande successo che passati alcuni giorni tutta la deputazione è stata dichiarata nulla dal governo e nominato un proprio commissario governativo nella persona del dottor Markhart di Merano, che ha preso in consegna l'ufficio. E di questi episodi potrei raccontartene a dozzine, se non fossero di poco interesse in confronto agli avvenimenti precipitanti. Proprio ora apprendiamo della marcia delle truppe di Hitler in Olanda e nel Belgio. Cosa giungerà ancora alla povera umanità prima di raggiungere la tranquillità e la pace? Elena. Mi arrivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuori. Non ritinto, stava tanto nel 400. 20 giugno 1940. Lettera anonima inviata a Mussolini. Illustro Duce, vi prego di leggere queste poche parole. Adesso che si parla dei trattati di pace per stabilire una nuova Europa, pensiamo anche noi del Südtirol, che sarebbe il tempo adatto per passare in rivista quel trattato che del nostro paese voleva fare terra italianissima. Abbiamo dimostrato alla fine dell'anno passato a voi, Duce, e al Führer, che siamo rimasti tedeschi con tutto il cuore. Con le lacrime agli occhi ci siamo decisi di abbandonare il suolo natio. Ma la bugia che il paese sia sempre stato italiano con questa decisione non è cancellata. Bugia che poteva dire soltanto quel vecchio matto di Tolomei, che purtroppo da 20 anni vive sano e salvo fra noi, nonostante il suo perpetuo lavoro d'agitazione. Se nel mondo regna ancora la minima giustizia, il primo paese restituito dopo questa guerra tanto valorosa per la Germania dovrebbe essere l'Alto Adige. Voi forse non sapete quanti dolori, quante lacrime ci ha costato, vedendo che i nostri bimbi non potevano imparare a leggere e scrivere nella lingua materna. Era un torto grandissimo recato alla popolazione. Sulla base dell'amicizia italo-tedesca, dopo tanti sacrifici che la Germania ha fatti per voi, Duce, sarebbe una piccolezza rinunciare a questo pezzettino di mondo che per voi non giova e che per noi è la patria. Con piena fiducia, una donna dell'Alto Adige. Du mein Berlin, Berlin, du Perl an der Spree, dich erst kennt, Berlin, wer sagt dir nie adieu, denn deinen Zauber kann man niemals mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin, Berlin. Oberrasen, 27. September 1940. Lettera di Giovanni Mayr, scritta al militare germanico Guglielmo Plackner, Feldpost 34002. Lieber Julius, in dieser Bevölkerung herrschen zurzeit verschiedene Meinungen. Und zwar möchte ein Teil auswandern, aber der andere Teil will überhaupt nichts davon wissen, die Heimat zu verlassen. Einige glauben auch, dass Italien nicht in der Lage sein kann, die immensen Beträge für die Hinterlassenschaften aufzubringen. Selbst die Deutschen glauben nicht, dass die Auswanderung ausgeführt wird. Besonders in Österreich heißt es, dass wir nicht optieren werden. Ich bin aber der Meinung, dass es sich da nur um Propaganda handelt. Nächsten Sonntag findet die ersten öffentlichen Versammlungen statt. Nämlich in Unterrasen in der Pension Rasun Valdaura und in Oberrasen beim Lechner. Es ist richtig, dass solche Versammlungen stattfinden, damit das Volk über die wahren Umstände auf dem Laufenden bleibt und auch von der Idee abzubringen ist, hier zu bleiben. Denn hier heißt es ja immer nur credere, lavorare e obbedire. Dein Johannes. Oh, cosa vorresti fare? E se ti sale il cuore a farti stare? Se ci vuoi fare nel taccino, fruga di frugo io, non vuoi trovare becco di un quattrino. 21 novembre 1940. Comunicazione del questore di Bolzano Alberto Belli alla Regia Prefettura di Bolzano. Per notizia trascrivo la seguente segnalazione del Comando Tenenza dei Carabinieri Reali di Bipiteno. Dalle indagini esperite, nella giurisdizione di questa tenenza è risultato che circa il 50%, specie dell'elemento rurale della zona, è ora pentito di avere optato per la cittadinanza germanica, perché, contrariamente alle promesse loro fatte dai propagandisti incaricati dalla Commissione germanica, devono necessariamente abbandonare le loro proprietà per trasferirsi nel Reich. Se fosse loro assicurato che la richiesta di annullamento dell'opzione per la cittadinanza germanica venisse ora accettata dal governo italiano, oltre il 50% della popolazione la inoltrerebbe immediatamente. Ma tutti temono che non solo verrà rigettata, ma anche segnalata all'autorità germanica, che poi prenderebbe dei severi provvedimenti a loro riguardo. Invasi da tale timore, nessuno o pochi sono coloro che si azzardano ad inoltrare una richiesta del genere e si riguardano anche dal far comprendere ad estranei il loro cambiato visamento ed il loro disgusto verso i componenti la Commissione germanica, perché come provvedimento iniziale sarebbe quello di farli partire immediatamente, come già accaduto per altri. Graz, 18. Mai 1941. A Francesco Plattner, alla Gundo. Cari fratelli e sorelle, il medico mi ha rilasciato un certificato che questo clima non è adatto alla mia costituzione fisica. Inoltre ti posso dire che qui la gente è cattiva, un popolo dozzinale. Noi abbiamo sempre detto che gli italiani sono cattivi con noi, ma anche i tedeschi lo possono essere, specialmente qui nella Stiria. Inoltre dicono che noi siamo un popolo bastardo. Dunque, che aspetto ha adesso il Sud Tirolo? Credete di dover anche emigrare? Qui si vocifera che noi ritorneremo tutti a casa nostra e questa sarebbe anche la miglior cosa. Benché diventerà anche colà tedesca, ma almeno è la nostra patria. Qui abbiamo vissuto molte delusioni se si confronta alla grande propaganda fatta nel Sud Tirolo. Certo che è guerra, ma almeno potevano evitare balle con la gente. Qui siamo ancora senza abitazione e bisogna lavorare da mattina a sera per guadagnare appena il vitto. Solo la gente vecchia sta abbastanza bene. A presto, Anna. St. Ulrich, 2. November 1941. Lettera di Rupert Senoner a Flora Walpott a Innsbruck. Liebe Flora, hier gibt es wenig Neues. Keiner wandert mehr aus, denn sie haben alle lange daran gearbeitet und bleiben jetzt hier. Es wird auch wieder die Zeit kommen, wo wir alle vereint sein werden. Jetzt redet man viel darüber, dass wir bald auswandern werden, aber das macht nichts. Denn die Zufriedenheit, die wir hier jetzt haben, ist schnell woanders auch wieder gefunden. Jetzt fragt dich auch keiner mehr, ob du Deutsch oder Italienisch bist, sondern eher, wie oft du schon optiert hast. Bussi, dein Rupert. Ingolstadt, 2. Jänner 1942. Alla famiglia di Giuseppe Innerhofer, Campo Tures. Caro fratello e cari bambini, prego sempre il Dio e la Madonna che voi possiate superare il triste e amaro destino che ci perseguita e che vi sia concesso di rimanere ancora a lungo legati fedelmente alla zolla della nostra terra, poiché un paese straniero non potrà mai diventare la patria. I giovani possono rassegnarsi ed adattarsi più facilmente al destino inesorabile, ma quando si è già avanti negli anni, allora si sente tutto in doppio grado ed il tormento amaro della nostalgia si fa sentire fino in fondo all'animo. Mille auguri e saluti da vostra sorella e zia, Paola. Settembre 1942. Lettera del commissario prefettizio del comune di San Genesio all'alto commissariato per l'esecuzione degli accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige, Agostino Podestà. Il giorno 22 settembre 1942 il contadino Giovanni Cappa, in principio optante per la Germania, poi revocato per l'Italia, si presentò al sottoscritto commissario prefettizio di San Genesio a Tesino per deporre in atto quanto segue. Da quando i miei vicini seppero della mia revoca, la contadina Maria G. con la figlia Anna mi fanno a me e mia famiglia la vita quanto mai dura. Sie lassen immer wieder Steine auf uns herabregnen, denn ihr Hof befindet sich oberhalb dem unseren und beschimpfen uns als Porco Italiano, falsche Focola oder Cane Italiano, falscher Hund oder ihr werdet das Dorf noch vor uns verlassen müssen und ihr falschen Teufel werdet nach Abyssinien abgeschoben werden. Und immer wieder kommen Steine und Sachen von oben und gefährden die Personen und unsere Sachen. Due mesi fa, difatti, venne ferita ad una gamba una delle sue capre. Hanno paura, data l'aperta ostilità della famiglia, della quale il nipote della soprannominata G, A.P., si prodiga con lancio dei sassi. Die letzte Attacke von geworfenen und gerollten Steinen gegen meinen Hof war am 21. September. Verso il mio maso, avvenne il 21 settembre. Wir mussten ob dem Steinhagel von unserer Arbeit flüchten, der von dem jungen P. ausgelöst wurde. Ich wollte darauf bei den Carabinieri von Jenesien Anzeige erstatten, aber ich verstehe die italienische Sprache schlecht. Also dachte ich daran, mich an die Bezirksleitung zu wenden, um Schutz zu erbitten für mich und meine Familie, denn ich möchte in Frieden mit allen leben. Huckenrieden, Quäkenbrück in Deutschland am 14. November 1942. Alla famiglia Ramoser, a Sopra-Bolzano. Carissima famiglia Ramoser, purtroppo l'estate è trascorsa e non si scorge ancora nessun segno della fine di questa guerra. Io parlo sempre della guerra, ma cosa volete? Un proverbio dice che la lingua batte ove il dente duole. Anche noi qui si sente le crudeltà della guerra e le sue conseguenze sono innumerevoli. Voi avrete sentito anche il bombardamento della Germania occidentale. Noi abbiamo avuto l'occasione di vedere anche tutti gli aeroplani nemici in transito, tanto nell'andata quanto nel ritorno. Loro evitano per principio il bombardamento di paesi piccoli e prendono d'occhio sempre città industriali di qualche importanza. Natürlich wurden wir auf unserer Flucht immer wieder verfolgt und immer wieder fielen auch Bomben an verschiedenen Orten und trafen dabei auch belebte Zentren. Questa cittadella conta circa 7.000 abitanti, 100 dei quali sono già caduti in guerra. Quanti saranno alla fine della stessa? La raccolta di quest'anno si può dire che è stata mediocre. Zwei Drittel der Kartoffelernte mussten wir verfaulen lassen. Bovini non siamo stati costretti a consegnarne e lo stato degli stessi è ancora come ante guerra. Al contrario, i cavalli sono di molto ridotti perché requisiti per scopi bellici. Penso che i sudtirolesi avranno avuto sul principio dell'emigrazione molti dispiaceri. Ma oggi però si può chiaramente dire che possono chiamarsi felici coloro che sono rimasti in patria, perché possono almeno vivere in un angolo del mondo ancora risparmiato dalla guerra. Vi dico che non è piacevole dover passare molte notti nel rifugio come qui da noi. Obbligatissimo C.L. Wösten. Milano, 26 marzo 1943. Al soldato Alois Fasolt, militare germanico in Russia, Feldpost 0974-B. Caro Luis, non si sente più parlare dell'emigrazione. La gente lavora come se non fosse successo niente. E questa è la cosa più intelligente che si possa fare. Vedrai, Luis, che se tu riesci a ritornare da quella maledetta Russia e a salvare in un modo o nell'altro la pelle, faremo insieme grande festa in patria. Fino ad allora passerà certo molto tempo e noi dovremo aspettarci cose più brutte ancora, perché le nubi nere che incombono sul Sud Tirolo vanno facendosi sempre più minacciose. Però dopo la tempesta viene anche il sereno e anche di tutte queste porcherie verrà fatta piazza pulita. Saluti dalla patria lontana, da tua sorella Anna. Caldaro, 3 aprile 1943. A Marianna Gasser, a San Lorenzo di Sabato. Carissima Marianna, attualmente qui incomincia la bella fioritura. E quando è completamente sbocciata sembra veramente un paradiso. Chi abbandona queste regioni si chiamerà certamente pentito, benché qui ora non si parli che di emigrazione, ma non però di emigrare, perché ognuno dice di no e non più sì, come tempo fa. La scorsa estate è stata qui una donna che poco prima era emigrata in Germania e ci ha chiesto se conosciamo la differenza tra il gatto e l'emigrante. E noi abbiamo risposto di no. Essa ha poi spiegato questo indovinello come segue. Il gatto apre gli occhi il terzo giorno, mentre l'emigrante subito dopo il confine. Saluti cordiali, Rosa. Kufstein, 22. Mai 1943. Alla cognata Rosa Gargita, a Bressanone. Carissima Rosa, oggi ho l'occasione di spedirti questa lettera per via privata e nello stesso tempo voglio farti noto che a noi non ci va troppo bene. Ora ci troviamo a Kufstein, privi di abitazione ed inoltre senza speranza di poterci sistemare. Che perciò ti puoi immaginare lo stato d'animo in cui ci troviamo. Per l'abitazione ho tentato anche presso il municipio, ma nulla valsero i miei sforzi perché ve ne sono ormai circa 500 prenotati prima di noi. Qui all'albergo non si vive che di patate. Se si potesse avere l'abitazione con cucina propria, si potrebbe suddividere meglio i generi alimentari. Ora il nostro avvenire è in balia della sorte. Si credeva di migliorare le nostre condizioni, ma invece esse sono di molto peggiorate. Non passa giorno nel quale noi non si rammentasse i lieti giorni trascorsi nella bella Bressanone. Per noi, certo, non torneranno più. Si invidia coloro che si trovano ancora in patria. Vorrei scriverti ancora tante belle cose, ma dovrei compilare allora un libro intero. Come ci è andata sinora, non lo auguro nemmeno al mio più grande nemico. Una volta che si è caduti nei loro artigli, ben difficilmente si può più liberarsi. Ti saluta cordialmente Maria, con Hans e Peppi. San Michele da Piano, 4 agosto 1943. Al capitano Antonio Kössler, posta militare 94. Carissimo Tony, quale vita regna in questi giorni ad Appiano? Un'intera guarnigione tutta formata da soldati tedeschi ha occupato il paese. E quale accoglienza hanno ricevuto dalle ragazze di Appiano? Esse sono andate incontro ai soldati con fiori, frutta, pane, liquori e le cornie. Noi dobbiamo curvare il capo e strisciare più che mai, altrimenti guai. Se ci vedono barattar parola con qualcuno, cominciano a darci addosso. Die Walzen. Ma vedremo, sino a quando potranno comportarsi in questo modo. Per ora sono abbagliati dallo splendore dei tedeschi. Ciò che questi fanno è giusto e va tutto bene. Se fanno qualche cosa che non va, hanno subito pronte mille scuse. Non fanno altro che dire: ora finalmente sono venuti a liberarci. Noi optanti per l'Italia, secondo la loro opinione, dovremmo venire presto a raggiungervi. Che idiozia. Ti ringrazio di tutto cuore per la tua cartolina. Tua Anna. Terlano, 6 agosto 1943. Ad Alois Macher, a Tesimo, Albergo Leone. Cari miei, la novità del giorno è che il 4 corrente mese sono arrivate qui le truppe germaniche. All'entrata in paese sono state ricevute dai bambini con mazzi di fiori e dalle ragazze con ceste di frutta e sigarette. L'entusiasmo della popolazione è stato grande. Il maresciallo non voleva permettere questo festoso ricevimento, ma gli ufficiali germanici lo hanno politicamente spinto a parte. Dappertutto sono stati ricevuti festosamente. Qualcuno ha persino usato la seguente espressione: Südtirol gehört uns. Vostra Elsa. Caldaro, 12 agosto 1943. Alice Adler. Cara Alice, nessuna novità di grande importanza, solo che abbiamo qui molte truppe germaniche. Gli italiani sono idrofobi e preferirebbero sparar loro una pallottola nella testa. La polizia fa servizio col moschetto e sono guardinghi come la volpe nel pollaio delle galline. Alle ore 10 tutti devono essere a casa e quello che si trova ancora sulla strada li sparano. Da questo procedere puoi commisurare l'alleanza che esiste fra questi due stati. Dappertutto sono sistemate delle mitragliatrici. Cordiali saluti. Marta. 9 settembre 1943. Estratto dal diario della bolzanina Ada Vita. Sono in rifugio. Sono le ore 3 di notte. 5 minuti fa abbiamo sentito sul più bello del sonno un fortissimo frastuono e un rumore tremendo. Alla svelta, così come si era giù in cantina, continuano ad esserci scoppi. Dicono che i tedeschi hanno minato i ponti e prendono i punti strategici. È già un'ora e mezzo che siamo qui. Chissà cosa avverrà. Io mi raccomando l'anima a Dio. Non si sa più cosa fare. Siamo stati in rifugio fino alle 8. Poi siamo andati in cerca di pane. Una confusione tremenda, non ci lasciavano passare. Certi disastri per le strade. Tutte le caserme sbudellate e bucate. Nell'angolo del druso c'era una pozza di sangue. E senza accorgermene, ci sono andata dentro con i piedi. Tutto in giro ci sono i carri armati. Ogni tanto passano nostri soldati prigionieri. Le auto dei nostri soldati sono occupate da loro. Colpi di cannone e fucile. Il fortino di Castelflavon resiste assieme ad altri gruppi isolati. Il Virgolo è stato tempestato e hanno resistito fino alla mattina alle 8. Ai soldati tutti portavano da mangiare, perché erano da ieri sera senza niente. Tutti cercavano di mettersi in borghese. I carri tigre circolano per Bolzano. I bolzanini in borghese con una fascia bianca circolano. Tutti temono bombardamenti e scappano come profughi. Allora un grazie, best and dank a Maria Pia Zanetti e a Rainer Reibenbacher che hanno letto un estratto, sembra molto lungo ma in realtà è una piccolissima parte rispetto alle lettere sia che sono state pubblicate sia che poi naturalmente sono conservate. Io ho il privilegio di presiedere questa associazione che ha un altro privilegio, quella di essere composta non solo da ricercatori. È molto importante che in un'associazione vi siano persone che fanno le cose più diverse, perché è col lavoro di squadra, fatto anche di tecnici, fatto anche di conservazione di fotografie, fatto anche di gestione sito internet o di gestione comunicati stampa, che si può costruire un percorso comune. Allora voglio naturalmente ringraziare innanzitutto, dicevo, chi ha seguito la stampa, e sono Emilia Marini, Adele Moroder. Voglio ringraziare il segretario della nostra associazione, Fabrizio Miori, che è già attivo nel campo del trasporto libri. Voglio naturalmente ringraziare Vladimir Martello, che sta facendo altrettanto, ai tecnici Silvano Gazziero qui alle mie spalle e naturalmente anche Stefano Veneri. Grazie a tutti, a voi per la vostra pazienza e per la vostra presenza. Abbiamo una piccola sorpresa che penso ormai non sia tale, perché avete visto trasportare alcuni vassoi, quindi c'è un buffet a disposizione di chi volesse fermarsi a chiacchierare con noi. Chi invece volesse avere qualche informazione di più sulla nostra attività, qualche libro, qualche pubblicazione e quant'altro, stiamo allestendo in questo spazio che ci è concesso, questo tavolo. Ancora un ringraziamento per concludere, ma un ringraziamento forte alla Biblioteca Claudia Augusta, alla sua direttrice Valeria Trevisan, tutto il personale che ha lavorato per la costruzione di questa serata. Grazie ancora, è stata... È stata la prima volta che collaboriamo come associazione assieme a questa importante biblioteca, spero che non sia l'ultima, per quanto ci riguarda faremo il possibile perché si possa continuare. Grazie a voi.